Va scritto nel novero dei fornitori di esplosivo. La mafia, in vista delle attività stragiste, si rifornì di un quantitativo significativo di esplosivi. Questo non è l'unico filone di rifornimento di esplosivi, altrimenti l'approccio sarebbe riduttivo. Questa vicenda, che noi in gergo chiamiamo la storia del pescatore, naturalmente è uno dei rami dell'inchiesta. Questo tritolo solidificato veniva ridotto in polvere per essere impiegato come componente di ordigni esplosivi. Componente quindi non unico. Per la preparazione di quegli ordigni erano state adoperate diverse tipologie di sostanze esplodenti. La conferma dell'utilizzo di uno stesso esplosivo, come la leggete voi? E anche uno dei fornitori sia lo stesso? Ha sì, per voi un elemento di continuità? Questo è un segno di continuità che andrà letto con la sua complessità quando giungeranno a termine, a maturazione, le indagini sulle stesse materie che sono sviluppate dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, e insieme si avrà un quadro, diciamo, dinamico di questa strategia o di questo impiego di Cosa Nostra in una strategia che evidentemente comincia con la strage di Capaci, prosegue con i notissimi fatti di Via D'Amelio e infine si sviluppano nel continente. Vi è indubbiamente una ricostruzione unitaria di questi eventi che passa anche attraverso l'individuazione di questi canali di approvvigionamento.